esseri nel feto che non nascono, che piangono, fingendo feti in sus, impulsi falsi, scherzi della natura, vita dura predisposta, per i dannati costa tutto troppo e basta. Nel mondo senza senso.